Cominciamo senza l'attore di Lucia, perché abbiamo due relatori che si occuperanno come risulta dal programma della Sicilia, e ci sarà poi un intervento del professor Figliuolo che riguarderà l'Italia meridionale, diciamo peninsulare. Ci sembrava una situazione troppo importante per lasciarla per tutto esclusa dal lavoro di questa settimana. Quindi io do la parola al professor D'Alessandro, parleranno, mi pare di capire, alternandosi. Benissimo. E potete allora dire senza cominciare. Prego. Ovviamente anche noi, cioè Corrado ed io, ci limiteremo a notare quelli che sembrano, non quelli che sono, la verità, il punto essenziale. È un tema che così basta anche abbastanza spesso, nella speranza che ci sia poi tempo in sede di discussione di chiarire ulteriormente quelli che possono sembrare soltanto dei denunciati o che rimarranno soltanto delle denunciazioni. Comunque tratteremo quattro aspetti della questione, utilizzando un taglio tematico piuttosto che cronologico. E precisamente l'origine e il primo consolidamento delle coordinate fondamentali dell'ordinamento territoriale e dell'insediamento etnico siciliano, nonché le prime vicende della disattuazione ecclesiastica. Va da sé che tutto ciò va riferito principalmente alle povere romane. In secondo luogo si illustrerà la variazione nella geografia dell'amministrazione regia, a partire dall'epoca fiorentina fino a tutto il XIV secolo. Infine ripercorreremo parallelamente le vicende del XIV e del XV secolo siciliano, probabilmente in relazione ai grandi temi dell'affermazione dei poteri signorili a livello territoriale e dell'emergere definitivo di un ordinamento basato sulle città demaniali e sui loro territori. Per fare questo, partiamo dalla distrettuazione in valli, facendo riferimento alla prima delle cartine che la definizione del territorio insulare per valli è un fatto che si suole attribuire ai conquistatori musulmani, diceva anzi Michelamari, per comune attribuzione data per pensamento comune. Questa ripartizione era rinnovata dai nuovi governanti normanni. In particolare da Ruggero II, il quale definiva la ripartizione per la quale il Cuneo Salso, cioè l'antico Imera, delimitava l'occidentale Vallo di Mazara dal più antico Valdemone e dal Vallo di Mosse, a loro volta delimitata dai fiumi Sasso e Simea. Ciascuna dei territori costituiva forse una provincia amministrativa che il cui ordinamento doveva permanere fino al secolo XIX, senza mutamenti sostanziali, corrispondendo evidentemente a regioni oggettive, politico-amministrative, oltre alle differenze fisiche e morfologiche tra i territori. La regione isolana, infatti, è per un terzo collinare e per un quarto montuosa. È pure vero che la ripartizione in valli, oltre alla distinzione tra una Sicilia al di qua o al di là del fiume Sasso, non basta a definire la regione isolana che rivela una complessa mappa di aree e sottoaree differenti sotto il profilo geografico come sotto il profilo culturale, senza considerare le diverse modificazioni applicate a quello scenario dagli eventi naturali ancora poco noti o dall'intervento dell'uomo solo in minima misura studiato. Il Vallo, come circoscrizione territoriale, rimanda per molte versi ai cosiddetti Akalim musulmani, cioè ai distretti militari e amministrativi, costituiti dai combattenti musulmani, appunto, che occupavano le terre conquistate o che vi erano insediati con l'assegnazione di lotti fondiari individuali, che complessivamente componevano un distretto amministrativo corrispondente, da un lato, alla esigenza di governo del territorio da parte del potere e dall'altro lato alla richiesta delle moderazioni dei guerrieri, dei corpi militari che avevano attuato materialmente la conquista. E va notato che questi corpi militari, cosiddetti giunti, ma salutiamo qui, questi corpi militari si formavano su base tribale e parentale, oltre che essi, e che pertanto essi non potevano essere né divisi né aggregati a corpi diversi. Pertanto, come supponeva un volta Mitterrand, pertanto i governanti musulmani adattavano gli aree, cioè gli akalim, ai corpi militari, ai giunti, e non viceversa. Ogni akalim era collegato a un centro abitato, munito e attrezzato in modo da poter accogliere, magari per la prece pubblica del venerdì, come dice la Conte, gli uomini che vivevano nei villaggi dell'akalim stesso. Pertanto questo costituiva il distretto rurale del centro urbano, come si notava ancora a metà del secolo XII, quando terre, tra virgolette, spiegheremo più avanti, come Caltabellotto, Corleone, Osciacca, nel bando occidentale di Mazzara, o come Caronia, nel bando orientale di Demone, erano indicati quali centri di accadimento di diversa e diseguale estensione. Anche per questo l'età musulmana segnava un recupero della geografia urbana isolata, corrispondente ormai al modello culturale acquisito dai nuovi signori, per cui il centro abitato era poco amministrativo e commerciale del territorio. A metà del secolo XII, il geografo di Porta e Pisi faceva ruotare tutta la sua descrizione del regno di Ruggero II sulle città, sui centri abitati, nei quali rilevava la presenza di mercati, segnalandone con ammirazione quelle più grandi e fornite, come, diceva, empori di prodotto, di prodotti di ogni genere, con una svariata scelta di merci e articoli. Di fatto, dall'età musulmana, la geografia urbana isolana prospetta una trama di inserimenti ben più fitta di quanto non si possa registrare per i secoli precedenti, ma è pure vero che la mappa degli inserimenti isolani rivela poi origini ben lontane, che non poche rocche e fortificazioni potrebbero assegnarsi alla iniziativa dei governanti bizantini, preoccupati della difesa del territorio in secoli endemicamente molto poveri. Che la nuova toponomastica araba si sovrapponeva a quella più antica che anche cancellava. Perché in generale si può dire che nell'Alto Medioevo prevaleva nell'isola l'esigenza della difesa del territorio, mentre nel Basso Medioevo prevaleva l'esigenza della difesa degli uomini. Il nuovo conquistatore Ruggero I si poneva con impellenza il problema di occupare e di tenere il territorio, di ordinare il governo dei vini, che erano pure da cristianizzare. A tal fine egli muoveva le forze immediatamente disponibili, del clero regolare, di quello latino a seguito dei conquistatori e di quello greco residuo nell'isola o richiamato dalla Galatia. Nell'età di Ruggero I si registrava la prima immigrazione di lombardi, tra virgolette, come genericamente si riferivano gli uomini che venivano dall'area padana e settentrionale della penisola. Da allora l'isola rimaneva terra aperta a quanti volessero trasferirvisi, fossero cristiani o ebrei o musulmani, egualmente accolti nella speranza di risolvere una povertà endemica che distinguerà la Sicilia dalla fine del secolo XII. Ancora nel 400 il tentativo di ripopolare le campagne e di attuare le colonizzazioni faceva ricorrere allo ius affidandi che dava impunità a quanti ebrei si trasferissero nel nuovo villaggio. Anche per questo la geografia degli insediamenti o il problema dello spopolamento dei villaggi rurali in Sicilia dalla fine dell'età romana sono da considerare con attenzione alle vicende etniche e militari, alla continua ricerca di forze di lavoro agrario, alla mobilità sociale interna promossa da governanti e signori, i quali peraltro fanno recuperare a volte una mappa degli insediamenti molto più antica. In età normale si definiva la distinzione tra la civitas, la città, murata, munita e centro di diocesi, e la terra, tra virgolette, abitata, in genere munita di un fortezzio, a volte anche murata. E quindi il casale rurale, aperto e privo di difesa. La città aveva giurisdizione sulle terre abitate, come si denominavano i centri urbani privi della dignità di città. ma come le città dotate di territorio e di giurisdizione sui casali del proprio territorio. Casali erano detti borghi, villaggi rurali di poche o di alcune decine di famiglie che continuavano la vita delle antiche ville rustiche. Ville ottime, quei sicuri casali a Vogan, diceva uno scrittore della Tarpeta Normanna. E villaggi erano detti quante nuove serve della terra erano legate alla terra dalla quale non potevano uscire. Erano innanzitutto i vinti musulmani asserviti, erano serbi di origine, aspettizie, ma molte di esse erano anche pesci. Erano pure dei villani in questa condizione, giuridicamente temporanea perché dovuta a scelta volontaria e pertanto riscattabile. Vediamo un po' la geografia diocesana e farei riferimento alla carta numero 2. Dopo più di 2 secoli di dominio musulmano, Ruggero I promuoveva la nuova geografia diocesana con la restaurazione di antichi e con la creazione di nuovi vescovati, tutti affidati a religiosi a lui vicini. A ognuno di loro Ruggero I assegnava generosamente beni superiori alle necessità, decine e decine di villani, musulmani e greci, esenzione e privilegi, ampia autorità giurisdizionale sulle comunità della parrocchia, della circoscrizione, cioè diocesana. Un equivoco auto nel paese il episcopo, parrocchia ma sua medeli e dedicato, diceva lo stesso Ruggero I, con usquisque de suis sufficiens beneficis al perino su parrocchia incrustare, non presumere. La rifondazione della Chiesa di Sicilia, la dislocazione dei vescovati, la dimensione delle diocesi e l'autorità conferita ai vescovi rilevano la strategia perseguita in Sicilia da Ruggero I per l'affermazione del proprio dominio, quanto più possibile diretto e quantomeno delegato al Signore laico. La sua opera si pone in tal senso come uno degli elementi costitutivi della cosiddetta specificità della successiva storia isolana o delle diversità in confronto ad alcuni caratteri della storia del meridione peninsulare. La prima chiesa di Sicilia, Palermo, non aveva una diocesi più grande delle altre chiese dell'isola, ma non per questo essere meno ricca. Il primo documento che attesta, che ci segnala la chiesa del territorio del 1122, ma naturalmente salta a che fare le divise, le indicazioni in particolare. Alla nuova chiesa di Torino, Ruggero I assegnava come circoscrizione diocesana nel 1080 un territorio che da Messina giungeva sino all'attuale, per sapere fino all'attuale Termini Imerese, comprendendo praticamente i Nepoli, molti dei Nepoli e le Maronie e quasi tutto il Val d'Emona. Al nuovo vescovo di Agrigento nel 1093, Ruggero assegnava un territorio che dalla città vescovile si allargava e incrossava nel dentroterra. Il nuovo vescovo di Mazzara aveva dal 1093 una vasta circoscrizione che arrivava fin presso Palermo. La diocesi di Siracusa si estendeva fino quasi all'attuale, alla nuova Casa Giovanna, all'attuale Enna. Da Catania, da Cicastrello, il territorio della chiesa catanese arrivava sino a Caltanissetta, all'attuale Caltanissetta. La legazia apostolica concessa dal Vaticano II era conseguenza della politica ecclesiastica del Ruggero I in una regione da recuperare alla Chiesa anche a fronte del patriarcato costantinopolitano. Allora, che era il 1098, Papa Urbano II dava ancora una volta prova del realismo che ne importava l'azione e che gli permetteva, anche qui, di guadagnare al papato l'obbedienza dei vescovi siciliani. Ruggero II, mettiamo sempre alla cartina numero 2. Il delicato rapporto tra Chiesa e il papato doveva ancora superare la determinazione con cui Ruggero II proseguiva nell'azione di politica ecclesiastica, nella volontà di controllo della gerarchia del clero, latino e greco, nel regno. Il primo sovrano di Sicilia abbiamo un nuovo vescovato a Cefalù, 1131, riuniva dal 1133 alle dipendenze dell'archimandrita del San Salvatore di Messina tutte le condizioni greche dell'isola e buona parte di quelle case. Cefalù nasceva con la costruzione del Duomo e la istituzione del vescovo, cioè Cefalù era molto più antica, anzi probabilmente era già vescovato partire, ma la storia, per così dire, nasce con il Duomo, la costruzione del Duomo e l'istituzione del vescovato suffragante dell'arcivescovato di Messina, dalla cui giurisdizione la nuova diocesi cefalotana era scorporata. Nell'età di Ruggero II si segnalavano alcune delle travagliate vicende del nuovo vescovato di Viva Riparte, che sarà riconosciuto solo nel 1166 da Alessandro III come vescovato suffragante insieme a Cefalù e l'arcivescovato di Messina. Ultimo, ma non certo minore caso di rifacimento della geografia diocesana siciliana, era la fondazione della chiesa di Morreale, il cui territorio era ritagliato dalle diocesi di Palermo, Mazzara e Agrigento. Morreale risultava seconda solo a Palermo nella chiesa di Sicilia, mentre i suoi arcivescovi erano tra i più ricchi e signori del regno. L'arcivescovo di Morreale deteneva il titolo di giustiziere sugli uomini dei molti casali dipendenti. Il territorio diocesano di Morreale coincideva per buona parte con l'area di insediamento di alcuni ultimi cospicui nuclei di popolazione musulmana che dalla fine di quello stesso secolo XII si voleva ulteriormente incrementare spostando i musulmani dai valli orientali nel lato occidentale di Mazara, votato alla specializzazione cerealicola. E con da notare infine che l'età normanna si distingue per l'unità di intenti e la concordia tra potere pubblico e potere ecclesiastico. Una concordia che non superava tuttavia il tempo degli stessi normanni e sboccava poi in una lunga, travagliata epoca di contrasti politici che dovevano ripercuotersi pure a danno degli enti ecclesiastici. Adesso cambiamo un po' prospettiva e seguiamo delle vicende di carattere diverso che si collocano cronologicamente dopo l'età romana, che riguardano la nascita e la trasformazione di diversi modelli di giurisdizione territoriale pubblica tra essi. Diversi decenni di incertezza politica e istituzionale, tra le ultime vicende della dinastia normanna e l'affermazione dell'autorità di Federico II dopo il 1220, avevano compromesso alle radici e quasi azzerato la costruzione istituzionale normanna anche dal punto di vista dell'organizzazione territoriale. E in quest'ambito Federico manifestava una forte tendenza alla razionalizzazione e all'omogeneizzazione dell'apparato amministrativo del regno, a partire proprio dalla ridefinizione della geografia amministrativa e giurisdizionale di questi. Ma incideva pure a fondo sulla stessa struttura dell'insediamento, del controllo militare del territorio, della ripartizione delle aree di influenza dei poteri pubblici e di quelli signorili. E tutto ciò interagiva anche con un contesto di mutamenti di fondo nell'assetto stesso del territorio. Le vicende dell'epoca che esaminiamo, le lunghe campagne di repressione dell'insubordinazione dei musulmani, innanzitutto, acceleravano quel processo di progressiva riduzione del numero e dell'entità del nucleo di insediamento sparso che si era delineato fin dalla fine del XII secolo e che aveva sconvolto la rete insediativa di villaggi aperti, casali a cui si faceva riferimento prima, che aveva caratterizzato le forme dell'insediamento rurale nell'isola lungo almeno 4 secoli. Abbandoni spontanei, distruzioni, deportazioni di popolazione tendevano a desertificare vastissime aree della Sicilia interna e prima fra tutte l'immensa diocesi signoria dell'arcivescovo di Monreale, quella più alta percentuale di popolazione villanale musulmana, e tendevano anche a configurare un modello di distribuzione dell'abitato in cui prevalevano i grossi borghi curati, la terra e ovviamente la civitates, dove si concentrava la popolazione di vastissimi distretti. Gli interventi di Federiciani, dalla cosiddetta Costituzione dei Resignandis Privilegis alle disposizioni sugli ius unificandi, fino alla vasta opera dei reintegratori Feudorum degli ultimi anni 40 del 200, miravano alla ricostituzione del demanio regio e dunque delle aree di diretto intervento finanziario e giurisdizionale pubblico, su una base estremamente favorevole alla monarchia. Ma miravano anche alla ridefinizione del rapporto con la corona dei concessionari di aree territoriali di carattere feudale. E miravano anche alla drastica riduzione dei centri signorili di controllo militare del territorio attraverso il divieto ai privati di costruire nuove fortezze e l'ordine di abbattere quelle abusivamente erette. altro profondo intervento sull'assetto territoriale del Regno, si realizzava non attraverso misure legislative, ma con una continua iniziativa di manipolazione della struttura insediativa dell'isola. La distruzione dei centri abitati e lo spopolamento delle campagne non era solamente effetto della campagna antimusulmana, ma coinvolgeva anche gli insediamenti dislocati in tutta l'isola. Posso saltare delle semplificazioni che riguardano delle deportazioni da centri della Sicilia nord-orientale verso Palermo e la favorire da parte del potere pubblico i flussi migratori sempre verso la città dove principalmente risiedevano. E ancora incidevano sulla struttura territoriale dell'isola i tentativi federiciani di fondare o rifondare grandi centri abitanti come Augusta sulla costa orientale o Eraclea sulla costa meridionale, per quanto anche il destino di tali fondazioni non fosse dei più riusciti. E incideva ancora la determinazione nel razionalizzare e nel rinforzare una rete di fortificazioni regie, sovrapposta alla rete delle città e delle terre, ma da essa sostanzialmente indipendente e separata, è pensata più in funzione di controllo dei maggiori aggregati insediativi che di loro protezione. La ricostruzione del tessuto circostituzionale del Regno, invece, procedeva articolando la Sicilia, da un punto di vista strettamente limitato alla giurisdizione criminale, in due vastissime circoscrizioni, che astrattamente si dicevano province o regiones, affidate a funzionari, denominati giudizieri, e delimitate dal corso del fiume Salso, della cartina fiume Salso e fiume Torto, come due branci che hanno una sorgente praticamente comune e dividono il grosso modalità la Sicilia. Ai giustizieri andavano anche i massimi compiti organizzativi, militari e di polizia, configurandoli come i maggiori ufficiali territoriali. Da un punto di vista finanziario, invece, due segreti, uno a Palermo e uno a Messina, coordinavano la tassazione fiscale sulle stesse aree. La giustizia civile e l'amministrazione locale veniva invece lasciata e attribuita ai baiori, istituiti in tutte le città e le terre del demanio regio fin dall'epoca normanna, mentre la giustizia d'appello ai camerati, funzionari nominati dai segreti e dotati anche di competenze fiscali. Questo intreccio di competenze disegnava un modello che frammentava a più livelli il controllo e la dispersazione del territorio. Inoltre, la vastità delle circoscrizioni giurisdizionali maggiori, giustizieranti e area di competenza dei segreti, ignorava, in prima istanza, la tradizionale consolidata distrettuazione basata sui territori che facevano capo a un centro abitato e costruiva circoscrizioni di dimensioni molto vaste, prive di reale coerenza territoriale. E ciò era chiaro anche ai circoli di corte, in quanto ci sono varie testimonianze dell'invito da parte del sovrano ai segreti o ad altri ufficiali di moltiplicare il numero dei camerari all'interno delle giurisdizioni in modo da ritagliare delle circoscrizioni, dei distretti più ridotti e omogenei per i compiti soprattutto di giustizia civile d'appello e di esazione fiscale. Da un altro punto di vista, il duplice livello in cui era articolato l'esercizio della giurisdizione, quella civile a livello locale, la prerogativa dei baiuri, quella criminale a livello distrettuale, affidata ai giustizieri, con la complicazione degli appelli alla Corte Centrale, disegnava un tipo di ordinamento territoriale in cui l'unico rapporto era rappresentato non da una scala di poteri generalizzati, ma dal comune rapporto di questi ufficiali con la Corte, con il centro. Non conosciamo i dettagli delle vicende della crisi di tale sistema, ma possiamo cogliere una significativa trasformazione all'indomani del 1282, della svolta della rivolta della rivoluzione del Vespro, e quindi della nascita di un regno di Sicilia limitato al solo territorio dell'isola. E a partire da questa spartiacque possiamo seguire nei 7-8 decenni successivi la sostituzione di questo modello con un altro che ripartisce le giurisdizioni territoriali pubbliche in maniera affatto differente. Nel 1282, dopo tre lustri di governo Giulio, che le fonti della prassi amministrativa indicano sostanzialmente all'insegna della continuità con l'epoca federiciana, le prime fonti aragonesi mostrano da un lato la permanenza del sistema dei giustizierati, così come pure il mantenimento delle funzioni fiscali da parte dei segreti, dall'altro la differenziazione dei distretti giurisdizionali in aree in parte ricalcate sulle antiche divisioni amministrative dell'isola, i valli della tradizione che abbiamo della Carta 1, e in parte ricagliate all'interno di questi, in un gioco di ripartizioni e di accorpamenti molto complesso, rispondendo a delinearsi di entità territoriali di maggiore omogeneità e di minore dimensione. E a questo punto inviterei a passare alla Carta 3, dove sono schematizzati, seppure approssimativamente, i confini dei giustiziati di età aragonese che si mantengono per la prima metà del XIV secolo. Il giustiziere a Palermo sottraeva a quello del Val di Mazzara la giurisdizione sul maggiore centro dell'isola e sulle realtà insediative dei dintorni che venivano identificati in base ad antiche divise, ad antiche carte di confine, Monreale e Carini, appunto. Un altro funzionario accorpava la giurisdizione sul cosiddetto Vallo di Castro Giovanni, di nuova istituzione, per lo meno di nuova, che spunta in quest'epoca per la prima volta, e ritagliato attorno al maggiore centro della Sicilia interna, con quella sull'intero Val Demone, all'interno del quale però risultava autonomamente identificato un vallo di Milazzo, che coincideva con il territorio del grosso centro fortificato della costa settentrionale, e cioè con una piana, area fortemente omogenea e fortemente differenziata rispetto alla tormentata struttura orografica del resto del Val Demone. Un altro giustiziere estendeva la sua giurisdizione su una circoscrizione eterogenea identificata attraverso la giusta posizione di un grande complesso civile, la contea di Geraci, su cui torneremo, e dei territori e i 200 demaniali ed essi adiacenti, Cefalù e Termini. Infine, un altro giustiziere controllava, data la discontinuità territoriale, le due isole di Malta e di Corso. Il sistema, complesso ma rispondente a logiche meno astratte di quelle che sovrintendevano alla ripartizione federiciana, veniva formalizzato in linea di principio da disposizione regge di Federico III all'inizio del 300, appunto, quando si stabiliva che il territorio siciliano, a eccezione del Palermo e di Messina, fosse suddiviso in quattro giustiziari. Tutto ciò, tuttavia, veniva rapidamente superato, poiché si avviava, fin dai primi anni del 300, un processo di profonda trasformazione dell'ordinamento territoriale, che si sviluppava sotto le spinte convergenti dell'emergenza militare permanente, guerra Anduini, guerra contro gli Anduini, poi in seguito occupazione di una parte dell'isola da parte dell'emigro Anduino, quindi l'emergenza militare permanente, e del progressivo emergere di posizioni egemoniche dei maggiori lignaggi aristocratici radicati sul territorio. La trasformazione, che era lenta ma definitiva, andava nel senso della riduzione delle dimensioni delle circoscrizioni giurisdizionali e amministrative, fino a farle coincidere con lo schema di distrettuazione mai venuto meno che aveva la propria unità di base nel territorio dei centri abitati demaniali, Civitatis, Terra e Castra. Da un punto di vista di una supposta razionalità centralistica della monarchia, si trattava di un passo indietro, in quanto corrispondeva a una sostanziale frammentazione degli strumenti di controllo del territorio e in quanto tendeva a realizzare una realtà policentrica, nella quale in opportune condizioni politiche generali, che si sarebbero verificate però poco dopo, avrebbero avuto un peso sempre maggiore nel governo del regno le oligarchie locali che si raccoglievano attorno alle istituzioni amministrative delle città e delle terre e al corpus di consuetudini, di privilegi e di prerogative che costituiva l'identità di queste civiltà e terre. Ai suoi inizi, tuttavia, il processo assumeva caratteristiche e percorreva vie del tutto differenti. La necessità di attribuire sempre maggiore importanza alla difesa dell'organizzazione militare del regno in guerra conduceva all'attribuzione di poteri via via più estesi a un funzionario che inizialmente aveva avuto compiti quasi esclusivamente militari, ma al quale, risultando l'unico ufficiale regio effettivamente presente in ciascuna delle realtà abitate dell'isola, venivano sempre più di frequente affidati compiti giurisdizionali e di governo. Si trattava del capitano regio, nominato appunto in ognuna delle civiltà e terre demaniali, col compito di curare la difesa e una prima organizzazione e dotato di giurisdizione su un distretto definito in maniera vaga, ma comunque sempre in relazione alle pertinenze territoriali del centro abitato. Voci, terre, circumadiacente, se sono le espressioni delle fonti, cioè dei mandati, delle nomine di questi ufficiali. In relazione alle esigenze della difesa, ma anche alle aspirazioni personali degli esponenti di un ceto aristocratico che sempre più monopolizzava queste cariche capitaniali, la carica assumeva le caratteristiche di un incarico plenipotenziario, definizione di uno storico del diritto, denominata capitania a guerra con giurisdizione delle cause civili e criminali. Dotato fin dall'inizio di funzioni di controllo sulle elezioni, gli scrutinia degli ufficiali locali al nome del, nome del sovrano, il capitano acquisiva poi poteri giurisdizionali limitati in linea teorica solamente dalla riserva regia dell'alta giustizia, come analogamente alle concessioni feudali. In tal modo si configurava una concorrenza e una sovrapposizione che mai fu risolta in termini di diritto tra i poteri del giustiziere, teoricamente da esercitare su circoscrizioni vaste, che includevano città e terre con i propri territori, che includevano complessi signorili, e poteri del capitano, che si estendevano entro i confini del territorio che faceva capo al centro abitato. Nei fatti, pur rimanendo teoricamente in piedi il sistema dei giustizierati, nel corso di pochi decenni, sostanzialmente tra il 1320 e il 1360, l'autorità giurisdizionale passava interamente nelle mani dei capitani, e l'assetto territoriale che ne risultava era una rete di distretti meno estesi e coincidenti con il territorium dei centri demaniali. La celebre testimonianza del re, il re Federico IV, che nel 1363 dichiarava che vale più oggi essere capitano di una terra che giustiziere di una provincia, può essere considerata la sanzione del superamento di fatto del sistema dei giustizierati e della definitiva affermazione dell'assetto che chiamerei capitaniale del territorio del re. Tutto ciò, peraltro, realizzava anche il superamento del modello pluriarticolato delle circoscrizioni giudiziarie, amministrative e fiscali, che abbiamo descritto più sopra. Parallelamente, infatti, i due segreti con competenze sulla, ciascuno sulla metà dell'isola venivano sostituiti da un solo maestro segreto per tutto il regno, in cui facevano capo in ogni terra e civitas demaniale un vice segreto. E ancora ai baiuli, eletti dalle singole università sempre dei centri demaniali e approvati dal sovrano, veniva confermata la competenza in materia di cause civili e la suprema responsabilità amministrativa a livello locale, inclusa la sovrintendenza alla ripartizione dei carichi fiscali. Circoscrizioni giudiziarie, civili e criminali, circoscrizioni fiscali e amministrative venivano così a coincidere con i territori della città. Il sistema che si era affermato per queste vie e che aveva consentito nel lungo periodo di debolezza del potere monarchico che coincide con l'intero XIV secolo l'assunzione di poteri pressoché assoluti sulle città e sui territori di queste da parte dei più potenti, intraprendenti e radicati lignaggi aristocratici, rispondeva a un'organizzazione territoriale profondamente radicata negli sviluppi dei modi di insediamento, nelle consuetudini economiche e produttive, nelle gerarchie tra centri abitanti, e si consolidava anche quando venivano meno le due condizioni che ne avevano favorito lo sviluppo. Dopo la restaurazione del potere regio nell'ultimo decennio del XIV secolo e la pacificazione definitiva dell'isola, l'articolazione in distretti facenti capo al centro demaniale, dove risiedevano gli ufficiali di cui abbiamo detto, si mantenevano. E un episodico tentativo di ripristinare i giustizierati di Valgo, ormai non più esistenti nei fatti, restava e il meccanismo degli appelli giudiziari alla Corte centrale, al sovrano, ma non conosceva rilevanti modifiche di carattere territoriale. Funzionava come era non soltanto alle esigenze e alle aspirazioni delle oligarchie locali, ma anche agli interessi della corona, che in quelle oligarchie trovava lo strumento di conseguimento sicuro del controllo politico e sociale e dei profitti fiscali. Al tempo stesso, gli interessi dell'aristocrazia dotata di possessi territoriali venivano ampiamente salvaguardati, poiché l'autorità dei funzionari regi nominati dei distretti a base cittadina, in senso generale città e terre, riguardava di fatto solamente il territorium del centro abitato, nel quale i feudi e i possessi signorili ricadevano soltanto da un punto di vista formale. A prescindere dal possesso del privilegio del medioevo imperio o delle esenzioni fiscali, i titolari dei feudi scorporavano nei fatti questi feudi dal territorium giurisdizionale della città, né temevano più il possibile controllo di funzionari nominati con sovrintendenza con competenze su varie vastissime. La concorrenza per lo sfruttamento delle risorse territoriali si spostava quindi interamente sul piano della conflittualità diretta tra oligarchie locali e titolari di grandi domini, in un gioco di alleanze, di inclusioni e di esclusioni, dal quale i poteri pubblici erano di fatto estromessi, se non sul piano della sanzione formale, della regolazione giudiziaria, sempre lenta e controversa dei conflitti. Veniamo adesso al terzo punto, cui ho ampiamente accennato finora, soltanto in relazione all'ordinamento pubblico, e cioè ai domini signorili. E limitiamo la cronologia al XIV secolo, poiché va detto che l'aristocrazia di cui parleremo si struttura rapidamente a partire dall'orchestro del 1282, insieme alla formazione del regno stesso. Esamineremo, soprattutto attraverso degli esempi, le vicende della formazione di vastissime aggregazioni territoriali sotto l'autorità, detenuta a vario titolo, di esponenti dei maggiori lignaggi siciliani, a partire da nuclei di domini territoriali ottenuti in feudo alla corona, fino alla formazione, nel tardo 300, di aree di influenza e di dominio di fatto omogeneizzate all'interno e che si configurano come vere e proprie alternative all'esercizio del potere regio sul territorio. Il processo, nelle sue grandi linee, è noto. A partire dal vescovo si trasformava profondamente la struttura interna dei centri dirigenti siciliani e alla monarchia si poneva il problema urgente di programmarsi una base di fedeli nei centri eminenti. Si ricostituiva l'ossatura di base dell'aristocrazia con provvedimenti di investiture in massa di cavalieri da parte dei due primi sovrani siciliani. E contemporaneamente venivano investiti alcuni personaggi rilevanti soprattutto nella corte e nel seguito del re, venivano investiti di possessi territoriali di grandi dimensioni. Manfredi Chiaramonte, che era se ne scalco del regno, veniva investito, gli veniva confermata la contea di Monica, un'enorme estensione territoriale nel sud-est della Sicilia. A Blasco Lagona, un Guglielmo II Moncada, ovviamente beneficianti. E allo stesso Chiaramonte veniva concesso l'esercizio dell'alta e bassa giustizia nei propri domini, offrendogli così l'elemento centrale, l'elemento fondamentale nell'acquisizione di un potere territoriale pieno e stabile. Nel corso del regno di Federico III, e soprattutto in quello dei successori, grosso modo fino al 1355, con vicende estremamente complesse che non potremo più eseguire, perché sostanzialmente sono una concorrenza all'ultimo sangue tra fazioni dell'aristocrazia, e le gerarchie sociali si semplificavano con la scomparsa di molti lignaggi anche attraverso l'uso e l'abuso di armi di conflitto politico come l'esilio e poi la distruzione fisica. Ma in termini generali il percorso che conduceva alcuni grandi lignaggi, qui poi vedremo qualche esempio, a porsi in maniera assoluta alla testa delle gerarchie dei gruppi dominanti e nella pratica ad esaurirle, seguiva le vie parallele dell'ampliamento e del consolidamento dei domini territoriali, dell'affermazione del controllo sull'apparato istituzionale del regno e sulla stessa persona del sovrano e dell'eliminazione dei più diretti concorrenti. Il nodo che univa le prime due strade, ampliamento e consolidamento territoriale, affermazione sull'apparato istituzionale, era inevitabilmente l'affermazione del potere sulle realtà cittadine che costituivano sia la rete del controllo politico e finanziario del territorio, come si è visto, sia lo strumento fondamentale del dominio sugli uomini e dello sfruttamento della ricchezza proveniente da fonti diverse dall'economia rurale e dal profondo sottobosco. A differenziare in prima istanza dal resto dei domini i maggiori patrimoni, così come si configuravano nei primi anni del XIV secolo, concorrevano due fattori: compattezza territoriale e dominio su grandi centri abitati e fortificati. I Ventimiglia, una delle famiglie, delle maggiori famiglie, dominavano su una contea, quella di Geraci, e qui si può cominciare a fare riferimento alla carta numero 5, ma in realtà la riprenderemo più tardi. O anche alla carta numero 4, dove sono più indicati, ma con un'altra funzione che poi vedremo. Che ricalcava questa contea di Geraci, che ricalcava i confini di un'antica signoria normanna, che comprendeva la quasi totalità del territorio montuoso del centro nord dell'isola. Era un'area geograficamente omogenea, dominata dal massiccio delle Madonie, in parte dei Nebrodi, nella quale si annoveravano numerosi abitati fortificati in posizione eminente, tali da assicurare il controllo pressoché completo del territorio. A questi centri facevano capo dei vasti territori produttivi e boscosi, e la catena di tali abitanti costituì una sorta di baluardo di controllo militare dell'intera entroterra e di alcune importanti coloni costiere. Erano analoghe le situazioni, che non esamineremo in dettaglio, ci prenderemo a questo esempio, del Chiaromonte, della Contea di Modica, come che ho indicato prima, nella Sicilia sudorientale, o anche domini di minore estensione, di maggiore articolazione territoriale di altri grandi lignaggi. Ma vorrei seguire nei dettagli, per quanto è consentito dal tempo che rispetto a disposizione, come esempio il processo di formazione di un'area di influenza, di costituzione di un grande dominio, a partire dal nucleo ottenuto intero dalla corona, proprio nel caso della contea di Gerace e di Covesano, a vicende di divisione e poi di riaccorpamento che non staremo più a seguire, di cui erano titolari appunto i venti miglia. Questi processi li conosciamo soprattutto attraverso questa vicenda. I venti miglia, a partire dal nucleo che nella carta numero 5 è disegnato con dei confini assolutamente arbitrari, che comunque racchiudono i centri abitati che risultano concessi in feudo originariamente, ottenuti dalla famiglia come possessi ad antico, ecco, questi centri sono racchiusi da una linea continua, in grosso modo all'estrema sinistra Gratteri, all'estrema destra Castelluzzo Bianchi, i due centri. Al nucleo originario di questa contea, attraverso una politica di permute e usurpazioni, nel giro di pochi anni aggiungevano la terra fortificata di Sperlinga, la rocca di Polli nel Pettineo e il feudo nella torre di Reggio Magni. Se osserviamo da vicino tale processo, identifichiamo con chiarezza alcune delle linee fondamentali di tale politica. La terra fortificata di Sperlinga, 1210, qui all'estrema sinistra della cartina, l'antica terra di Sperlinga, dicevo, veniva acquisita permutandola con un antico possesso familiare allodiale della famiglia Monte Maggiore, fino alla fine non figura molto fuori dell'area, e appunto per questo è rimasto in posizione periferica rispetto al nucleo della contea. Pettineo, un altro nodo di controllo territoriale, è in alto verso sinistra. Pettineo veniva acquisita nel 1331 attraverso un'altra permuta di un altro casale eccentrico rispetto alla contea, Barra Franca in tutt'altra area. Della forza militare, invece, dell'indiscussa superiorità realizzata nell'area medunita, si avvaleva uno dei conti, Ventimiglia, per usurpare il feudo di Re Sultano, posto nei territori granari ai margini meridionali dell'area, nel declivio verso sud della catena madonita, e soprattutto per operare una vasta opera di erosione ai danni dei domini del vescovo di Cefalù. Nei documenti della Chiesa è scritto che Magis timore qua novelle, nel 1321 il vescovo cedeva al conte la rocca di Pollina, che controllava la costa, siamo quasi al centro, verso sud, verso nord, nella cartina, la rocca di Pollina che controllava la costa e controllava anche una redditizia tonnara sulla costa. Appunto. Alcuni decenni più tardi, nel 1285, negli stessi termini, ripercorrendo la stessa strada, i Ventimiglia costringevano il vescovo a cedere anche il castello costiero di Roccella. Se ci spostiamo sulla costa verso sinistra, lo troviamo indicato anche da un ancora, in quanto era un approdo granario, un approdo di navi per il commercio granario, che era una postazione chiave per il controllo dell'accesso dal mare all'interno della contea e dell'intera isola attraverso le valli che scendono dalla costa verso sud. L'espulsione di poteri concorrenti dall'area di influenza ventimigliana era pure l'obiettivo dell'acquisto nel 1377 della terra di Asnelli, segnata come Isnello con il nome moderno, grosso modo sotto, verso destra della cartina, sotto l'anza del nucleo originario, sotto la data 1377, che in mano a un personaggio di notevole potenza a corte costituiva una costante minaccia per l'integrità del dominio territoriale del Ventimiglia. Da questi brevi esempi, potremmo seguirne altri, le date sulla cartina danno un'idea, sia pure vaga, delle scansioni di questo processo. Da questi esempi possiamo rilevare come acquisti, perdite e usurpazioni, cioè tutti gli strumenti a disposizione dei magnati, venivano utilizzati per raggiungere un obiettivo, che era quello di stabilire un dominio su un territorio compatto, militarmente ed economicamente integrato. E il consolidamento di questi domini territoriali non era cosa diversa dal controllo diretto sui centri del demanio, che, di cui abbiamo visto l'importanza a proposito della giurisdizione pubblica, sui centri del demanio che risultavano limitrofi all'area signorile. Nel caso specifico, Termini, in alto sulla costa, Polizzi, verso il centro della Cattina, Cefalù, sulla costa, verso il centro della Cattina. E non a caso era verso, verso l'acquisizione di beni in ambito cittadino che si rivolgeva all'iniziativa dei grandi passati nobiliari che li acquistavano dei vastissimi patrimoni alloggiali e li facevano sorgere grandi uffici a simbolo del potere degli ignari. Una delle forme di influenza sui centri abitanti, l'abbiamo già vista, era quella dell'acquisizione della terra capitaliale. C'erano naturalmente altre vie, che erano soprattutto quelle dell'acquisizione di enormi patrimoni immobiliari all'interno o nelle immediate adiacenze della città, quindi terre in alto valore. I Ventimiglia, per ritornare all'esempio, che erano già proprietari di immensi patrimoni immobiliari nei tre centri che abbiamo detto, nel 1358 diventavano rettori di Cefalù. Nel 1367 ottenevano addirittura l'interdazione di Termini. Nel 1371-73 acquisirono la capitania e la castellania di Polizzi con gran parte delle rendite di scaseggio. Ma sintetizzando con il linguaggio delle fonti stesse questo processo, citiamo un documento del 1373 relativo all'amministrazione della contea che esemplifica egregiamente tale processo. Il tesoriere del Ponte presentava i rendiconti di 10 anni di introiti riscossi a diversis secretis terrarum et locorum comitatus nostri, nec non a secretis et magistris portuanis ad ufficiali terrarum termarum et cefaluti, che erano terre demaniane, item a secreto et cabellotis terre polici, pure demaniane, item a secretis cabellotis et talis personis ufficiali terrarum et locorum nostre uber ragionis. Questo termine che spiega il tipo di percezione, il tipo di realtà del potere che si esercitava su terra, indistintamente su terra demaniale, su aree demaniali, su alloggi di abitanti dei centri demanialici. E quando moriva il Federico IV nel 1377, questa situazione si trasformava, e lo possiamo vedere nella cartina 4, in una proiezione di tipo politico diretto. Assumendo la carica di vicari, i quattro maggiori esponenti della democrazia isolana, a partire da queste aree che già costituivano un'estensione a volte indebita delle aree di pertinenza feudale, delineavano quattro grandi aree di influenza politica e giurisdizionale che sostanzialmente diventavano quattro grandi circoscrizioni in cui il titolare assumeva potere nell'area su conti e baroni, su città e terre demaniali. Lo smantellamento di tali domini, che era venuto dopo una guerra condotta dai restauratori del potere monarchico alla fine del 300, e la distruzione di parte di questi lignaggi aristocratici, non significava però la fine della potenza territoriale di tutti questi lignaggi, ma solo essenzialmente una distinzione più netta fra domini signorili e centri demaniali, centri e territori demaniali. Nel 1398 il sovrano, Martino I, convocava un'assemblea parlamentare a Siracusa e avviava un riordinamento che di necessità doveva partire dal recupero del demanio dopo la secolare spoliazione. A Siracusa si stilava un elenco delle città e delle terre demaniali. Se torniamo alla cartina 1, sono quelle segnate, circa 40 grandi centri abitati, grandi medi centri abitati, in cui risiedevano tutti gli ufficiali locali e periferici dell'amministrazione re, capitani, castellani, vicesegreti, vicefortunati, baiuli, venivano così a costituire l'ossatura dell'ordinamento territoriale del regno, riconoscendo in via definitiva un assetto che fondava le proprie radici in tempi ormai assai lontani. La descrizione del territorio dell'isola, che risultava dalle condizioni di tutti i feudi concessi dal corona, che veniva redatta un decennio più tardi, ordinava tali complessi territoriali all'interno di tre valli tradizionali e al loro interno il territorio o tenimenta identificati in relazione a ciascuno dei centri demaniali. Veniva così a compimento la compenetrazione della geografia amministrativa e politica e delle linee più tradizionali dell'assetto territoriale dell'isola. torniamo in città e al territorio. Il territorio urbano in particolare, che ovviamente non poteva sopperire in una volta alla domanda di cereali della nonna locale e a quella del mercato granario, anche in tempi di povertà endemica. Alla fine degli anni 30, per fare solo qualche esemplificazione, alla fine degli anni 30 del 400, quando si calcolava che la popolazione di Catania consumasse 12.000 delle 18.000 salme di grano prodotte dal territorio, gli amministratori cittadini rinnovavano alla Corte la richiesta di revoca della licenza di esportazione frumentaria, che costituivano da sempre la prima e principale maggiore rendita dell'erario. La stessa richiesta era rinnovata dagli amministratori di Messina. In quell'anno, era il 1438, Catania pativa una delle diverse carestie registrate in quel secolo. A Palermo si segnalava la carestia del 1450. Il territorio urbano era l'area dei beni cosiddetti burgenzatici, della media e minore proprietà fondiaria dei cives o burgenzas. Era l'area delle colture selettive, il cui prodotto andava ad aggiungersi sul mercato cittadino ai cereali delle campagne interne. A causa del vespro, Messina perdeva quello che era stato prima il suo entroterra, vale a dire la Calabria meridionale, e doveva ricercare gli approvvigionamenti nella piana di Lentini e nel Vallo di Noto. Marsala si riforniva dalle campagne dall'interna Salerno, Cefalù temeva l'ostilità dei Ventimiglia, signore della Maggiorini. Nei momenti più gravi, gli uomini delle città di mare assalivano le cocche mercantili in taxi. La difesa di quei beni burgenzatici costituiva molta parte delle consuetudini che componevano il corpo della libertà municipale, il patrimonio distintivo della comunità, la quale pertanto continuava a perseguirne l'accrescimento a fronte delle libertà delle altre università. Una posizione particolare teneva la terra abitata di Caltagirone, la quale deteneva un ampio territorio il cui primo nucleo risultava dall'acquisto di terre da parte del re, cioè terra acquistante dal re Ruggero II nel 1143. Ruggero II, dal quale la Caltagirone otteneva anche alcuni privilegi e il riconoscimento delle prime consuetudini confermate poi a caro prezzo dai sovrani. Un caso particolare è costituito poi da Messina e dalla creazione del suo distretto. Se volete potete guardare ancora per un momento la carta numero 3. E Messina, che come chiaro era città viva di un territorio naturale, ma che dalla fine del 200 riusciva a conquistarsi un distretus costituito da un lato dalla fertile piana di Milazzo e dall'altro prolungato fino a Torrina. Nel distretto la giurisdizione dello Stratigoto, lo Stratigoto era la denominazione del capo del governo di Messina, no? Secondo una definizione ovviamente bizantina, su cui meglio sorvolare. Dunque la giurisdizione dello Stratigoto quindi si estendeva anche nel distretto e si poneva anche su allodi e su prerogative che non erano solo della città di Messina né solo di Cives e Messinesi. Questa realtà, cioè la realtà di questa specificità ma anche pochezza del territorio, rendeva contrastante per tutto il 300 e anche ambiguo il rapporto tra la comunità urbana e la nobiltà feudale, la quale era per molta parte di origine cittadina e continuava a privilegiare la dimora urbana. Ma al di là della presenza fisica, l'aristocrazia mostrava di non avere bisogno di imporre nella città un dominio che non poteva dare vantaggi sia nel conflitto con la corona sia sul piano del potere economico, perché è stato giustamente notato, e credo proprio in questa sede, in anni lontani, no, almeno lontani da Mazzarese Barbera, quando ci fu il convegno organizzato da Else e da Sole sulla aristocrazia cittadina. È stato giustamente notato a differenza di quanto intanto avveniva nell'area centro-settentrionale della penisola, ove la nobiltà feudale era in lotta con i ceti cittadini, la nobiltà feudale siciliana invece ingaggiava al suo interno una lotta di egemonia che coinvolgeva la corona perché comportava il condizionamento della curia, mentre lasciava in posizione marginale le università cittadine. Tale considerazione appare pregiudiziale per un'interpretazione non precostituita della storia solare che corre dal vespro fino almeno al terzo decennio del 300. quando manifesta risultava la volontà di mobilitazione della più forte borghesia urbana, una volontà che indirizzava ogni aspirazione verso la terra, verso il patrimonio fondiario, fondamentale supporto di quelle ambizioni, piuttosto che verso la ricchezza finanziaria. Il governo delle città demaniali procedeva nell'età aragonese sul binario tracciato nell'età normanna in quella sfera. Ruggero I aveva stabilito i visconti e gli stati goti, ai quali subentravano con Ruggero II i Balivo o Baiuri, che rimanevano fino all'età degli aragonesi, tenendo per conto della corona l'amministrazione municipale, quali parte da giudici e da notari, tutti esecutori delle norme amministrative promosse dalla monarchia, senza disconoscere le consuetudini di cui intanto potevano fruire le università. Il re Federico III, che regnava dal 1296 al 1337, proibiva ai baroni e ai milites di interferire nel governo delle città demaniali e li escludeva dalle elezioni municipali. Di fatto, la capitale Palermo presenta sempre alla guida del governo cittadino dei milites, alcuni dei quali erano pure domini. E dietro a loro una nutrita schiera di giudici e di giurati che esercitavano la giurisdizione civile, che costituivano un ceto burocratico importante che non declinava di fronte ai rivolgimenti politici e militari nel regno e nonostante le rivalità interne mantenevano prestigio e influenza in seno alla comunità e forza in seno alla articolata borghesia urbana. L'accerchiamento delle campagne signorili spostava l'asse dell'economia reale fuori dalla città, ma questa non perdeva la funzione di centro amministrativo e giudiziario di gravitazione economica e sociale del territorio. Per lo stesso ceto burocratico municipale e la variegata borghesia urbana segnalata per il primo 300 nutrivano il ceto dirigente che dalla fine del secolo, decimata e mortificata dalla nobiltà feudale, mutato il quadro politico, economico e generale, risultava attrezzata a subentrare nel governo dell'isola mentre poneva la città con il suo territorio in un ruolo essenziale di governo istituzionale, amministrativo ed economico del regno e ne recuperava il rapporto diretto con la corona e la funzione politica. Le città portuali rimanevano nel 300 piazza di contrattazione fuori giudiziario dei mercanti esteri, come si diceva, che ritenevano proprie logge e proprie consul, che erano mercati di merci e manufatti importati e redistribuiti nei centri minori o interni. Agli operatori esterni si collegavano i procuratori di maggiori e minori produttori laici ed ecclesiastici, i mediatori dell'attività degli importatori di merci pregiate, di manufatti e degli esportatori di prodotti agrari, innanzitutto del grano che quelli andavano a caricare nei cosiddetti caricatori, cioè i luoghi costieri di approdo, come cioè poco fa, dove i cereali erano immagazzinati dal rimbarco e che erano più vicini alla campagna produttiva e comunque sempre allo sbocco dei malboni che costituivano ormai da tempo le vie principali, più brevi, meno costose, più remunerative di ogni territorio. La diffusione dei caricatori era in una sola volta segno del prepotere eppure del disinteresse nucleare per le città maggiori, tutte portuali, le quali si ritrovavano a partire dalle diminuzioni dirette e quelle indotte dall'impoverimento del ruolo marittimo nella vita economica e sociale, oltre che nella posizione politica. A cominciare da Palermo, la cui università cittadina lamentava nei primi del 300 la preferenza crescente della curia e anche degli operatori per i porti di Termini, Merese, da un lato, di Castellammare del Golfo dall'altro. Analoga era la condizione nella quale si ritrovava Agrigento a partire dal terzo decennio del 400, quando il suo porto, cioè Porto Empedocle, più antico insieme a quelli di Sciacca e di Canada sulla costa meridionale occidentale, si ritrovava sopravanzato dalla nascita dei due vicini caricatori di Sicuriana sulla sponda occidentale e di Montechiaro sulla costa orientale, per l'iniziativa rispettivamente del nobile Gisperto de Ispar e del nobile Antonio Cardone. Ma erano pure centri portuali la cui funzione era sorretta dal favore dei feudatari, tale il caso di Termini Merese, che i 20.000 signori dell'entroterra madrepunita utilizzavano per imbarcarvi cereali da esportare. Città demaniale, città feudale. Di fatto, quando si osserva al di sopra degli ordinamenti istituzionali, è difficile dire quale fosse la effettiva differenza di vita tra le prime e le seconde. Se le città demaniali fruissero o meno della libertà dello Stato demaniale, anche quando il potere regio vacava, e quale fosse il peso della condizione vassallata. Durante il 300 non erano poche le ribellioni di vassalli contro signori accusati di prevaricazione. Ma non vale procedere sulla falsariga di interpretazioni staccate dall'esame di realtà e situazioni specifiche, o tutte incentrate sulla contrapposizione dominatori-dominanti, oppressori-oppressi, per un secolo, quale il 300, quando la corona delegava il maggiore potere ai nobili e i sudditi non conoscono cui né chi sia re, come si dice dai messaggi. E quando la dipendenza giuridica, vassallatica o no, è la concezione connaturale e eticamente motivata. Per converso, altrettanto rigido può risultare lo schema dei conflitti, sempre più aspri tra le consorterie locali in un secolo come il 400, in cui si infettiva la serie dei passaggi di una stessa terra abitata dallo stato demaniale a quello vassallatico e viceversa. Passaggi incentivati dalla stessa corona, da solare quale Alfonso il Magnano, il quale poteva incassare le somme del riscatto offerte dalle comunità infeudate e raccolte dalla consorteria locale predominante, forse la stessa, che non contrastava quindi una nuova infeudazione della terra da parte della corona. Si era ormai, rispetto al 300, in un'altra epoca, che come si è detto vedeva una dialettica a tre poli tra monarchia, universitates e aristocrazia, che si svolgeva sul piano territoriale con un continuo reciproco interscambio fra l'area del demanio regio controllata dalle oligarchie cittadine e i domini dell'aristocrazia che a partire dall'ultimo 400, ma soprattutto nell'età moderna, si sarebbero rivelate le sedi delle più grandi trasformazioni negli assetti territoriali dell'isola, attraverso la promozione di fondazioni di numerosissimi nuovi abitanti, con la conseguente redistribuzione della popolazione e del territorio di pertinenza dei centri urbani. Ma questa è tutta un'altra vicenda che non è il nostro compito esaminare. Grazie.